Eccoci, ben ritrovati e ben ritrovata alla fuga del gatto. Oggi siamo partiti un po' in ritardo, ma... Solito elegante ritardo. Sì, esatto, ma ci faremo perdonare. 21, domenica, Ale, sì. Proprio manco il giorno. Ciaoone. Domenica 21 gennaio 2018, fuga del gatto. Che sicuramente essendo dei grandi nostri fan, immagino che vi sarete accorti l'altra settimana abbiamo saltato, ma abbiamo una buona scusa perché eravamo in viaggio premio, in vacanza premio. Davvero. Coi punti, perché comunque uno accumula i punti. E vacanza premio dai nostri amici di Radio Onda Rossa, che approfitterei subito per salutare e per ringraziare. Poi siamo andati a vedere le chiese barocche. Sì, ci hanno fatto fare un sacco di bei giri. Perché ovviamente noi facciamo cose pallose anche in vacanza, certo. Le persone vanno in vacanza a divertirsi, noi andiamo ovviamente a guardare gli organi del 600, certo, ognuno ha le sue perversioni, ma in realtà siamo andati a una bellissima iniziativa che c'è stato sabato scorso, ormai è già successa, però una bellissima iniziativa al nuovo Cinema Palazzo di Roma. Sì. Che festeggiava i 40 anni di Radio Onda Rossa con una serata di cabaret, di comici, di teatro sì. Che appunto che si susseguivano per tutta la sera che servivano a sostenere e finanziare appunto Radio Onda Rossa e quindi è stato molto interessante, è stato molto bello, sono stati molto carini ad ospitarci e quindi li salutiamo. Come siamo intellettuali. E li ringraziamo. Per cui questa è la nostra... È così, è la nostra scusa per non esserci stati l'altro e siete fortunati che non vi potete beccare le diapositive. Ah, sì, certo, ovvio. Siamo in radio. È la vostra unica fortuna. Sì, la fuga del gatto in fuga a San Luigi dei Francesi. Fuga del gatto davanti alla fontana dei Quattro Fiumi. La fuga del gatto ha fatto la fuga, però questa domenica ritorna, nonostante le condizioni precarie, vi assicuro, di entrambi le conduttrici, ma è un lavoro duro, qualcuno deve pur farlo e noi lo faremo. Lo faremo con in realtà, secondo me, con stile, perché, vabbè, ok, come ormai già sapete fino alla nausea, ne approfitto sempre per buttare lì un po' di baroccate, certo. E che non è da meno, diciamo che questa volta c'è la scusa che siamo andati a Roma, allora la patria del barocco e bisogna... Così approfittano, in realtà è una bieca scusa. Avrebbe trovato, ce ne frega niente, un'altra, sì. Scusa. È chiaro, cioè, vabbè. Comunque, quello che vi facciamo ascoltare oggi, infatti, è una puntata un pochino anomala, perché non vi terremo compagnia con le nostre vocine da oggi baritono, in realtà. E, via via commentando singoli brani, eccetera. Questa volta andrà un po' diversamente perché vi parliamo e vi introduciamo un concerto intero. In particolare questo concerto si chiama Icon du 600, in uno strano mix tra francese e italiano, voluto assolutamente. Non perché non sappiamo leggere il numero 600 per in francese, carità. Poi io non lo so fare. Un concerto che poi è diventato anche un DVD e quindi anche una raccolta dei pezzi in digitale, insomma, lo potete trovare. In realtà lo potete trovare nell'internet comodamente, ma altrimenti se siete dei legalisti o feticisti dei dischi lo potete comprare a cura dell'arpeggiata, poi ne parleremo, è un ensemble fondato, è spagnolo, fondato nel 2000, insomma poi ne parleremo un pochino meglio. Comunque l'arpeggiato ha curato questo concerto icone del 600 del 2008. Esatto. Che sostanzialmente raccoglie una serie di compositori italiani del 600, sia qui prende in esame composizioni sia strumentali sia anche cantate, e lo vedremo insomma tra i cantanti c'è poi essenzialmente solo lui, Philippe Jaroussky, controtenore con cui vi ho già ammorbato a sufficienza. Allora, vi leggo innanzitutto la lista dei brani che stiamo per andare ad ascoltare. Vi renderete conto subito che la maggior parte sono pressoché sconosciuti, o meglio, non sono veramente sconosciuti. Conosciuti ai più, diciamo. Sì. Uno proprio... Beh, noi qui alla Fuga del Gatto ci lamentiamo spesso del fatto che purtroppo la musica classica spesso ruota intorno ai quattro nomi e quattro composizioni. Almeno, insomma, ovviamente, non generalizziamo, però spesso purtroppo è così, soprattutto in Italia. Questa è una interessante opera di, invece, riscoperta di alcuni grandissimi del barocco e del 600 italiano, si concentra solo sul 600 italiano, appunto, perché... insomma, di fatto ci sono dei nomi che al tempo erano importantissimi e lo sono stati per secoli e che poi oggi sono ormai abbastanza buttati lì in un angolo, ma insomma meritano di essere riscoperti assolutamente. Sì, è un po' un modo anche appunto per allargare, per uscire un po' sempre dai soliti nomi noti e fare una panoramica un po' su quelli che magari appunto come autori, come virtuosi di certi strumenti piuttosto che come compositori specifici di un periodo non sono molto conosciuti da chi magari conosce la musica classica un po' per sommi capi. E quindi insomma era interessante poter fare una vista, avere una vista un po' più ampia e conoscere anche grazie appunto a questo lavoro dell'arpeggiata, e che qui è diretto tra l'altro è fondato e diretto da Cristina Plucar nel 2000, ora l'avevamo detto, sì, è anche condotto, è quello che la musicista che lo conduce, sì, tra l'altro è una suonatrice di Chiorba, esatto, e quindi insomma fra l'altro io vi sprono a guardarvi il video che lo trovate comodamente su YouTube di questo concerto, perché boh, non so, ora io sono particolarmente feticista, però è molto molto bello vedere anche gli strumenti, perché anche sono perché tutti credo, strumenti antichi che suonino sugli strumenti originali, quindi ecco, interessante, almeno in parte suoneranno quando possono e quello che hanno, però insomma in generale credo proprio privilegino l'uso degli strumenti originali, quindi ancora di più la resa è interessante perché è proprio quella che dovrebbe essere insomma teoricamente molto più vicina a quella che doveva essere nella scrittura, insomma. Poi non capita tutte le volte, insomma, spesso di vedere una tiorba, un salterio, cioè un chitarrone, ci sono vari strumenti che insomma normalmente nei nostri teatri non compaiono, e quindi è interessante anche soltanto poterli vedere registrati in video. Vi leggo la lista, la scaletta dei brani che ci stiamo per andare ad ascoltare, iniziando con un anonimo in realtà, Ninna Nanna al Bambino Gesù. Non ve li commento, ve li leggo soltanto, poi dopo entreremo nel dettaglio di alcuni di questi perlomeno. Poi c'è Maurizio Cazzati, La Ciaccona, Benedetto Ferrari, Queste Pungenti Spine, di nuovo Maurizio Cazzati, Passacaglia, Giovanni Antonio Pandolfi, Mealli, questo c'ha sette nomi, La Vinciolina, Ignazio Donati, O Gloriosa Domina, Marco Uccellini, La Luciminia Contenta, chissà che Luciminia che vuol dire, vabbè, Luigi Rossi, Lasciate Averno, Girolamo Kassberger, Toccata l'arpeggiata, sì, insieme. Giovanni Felice Sanchez, Stabat Mater Dolorosa, Antonio Bertali, chissà, Ciaccona, Claudio Monteverdi, Laudate Dominum, un altro anonimo, Ciaccona di Paradiso et dell'Inferno, di nuovo Monteverdi, Oimè che io cado, Domenico Maria Melli, Dispiegate quanci amate, e per finire ancora una volta Claudio Monteverdi con Sì dolce è il tormento. Ecco, sì, ci sono, come avrete notato, dei termini che ritornano, no? Per esempio passacaglia, no? è una forma musicale, una danza in realtà, ed era una delle forme musicali più note nel periodo, e comunque si compone di un insieme di variazioni su un basso ostinato e su uno schema armonico fisso di andamento moderato e molto sonenne, spesso è appunto una cantata accompagnata magari da una chitarra. Per esempio, ecco, in molti di questi pezzi sono passacagli, appunto, che sono delle forme musicali, come la ciaccona, che è un po' più nota magari della passacaglia, perché molti musicisti, molti autori, insomma, hanno scritto. La ciaccona uguale, era una danza appunto del XVII secolo e comunque una composizione strumentale, vi leggo, o vocale, ispirata appunto alla danza stessa e composta su variazioni anche questa di un basso ostinato. E quindi comunque ecco, per dirvi che questi termini che ritornano sono appunto riferiti a delle forme musicali, poi ogni autore chiaramente interpreta a suo modo. Sì, tra l'altro lo sentirete, sono tutte musiche piuttosto sostenute, appunto si sente, si percepisce bene l'intento di far ballare banalmente, perché molti di questi musicisti, probabilmente tutti, erano dei musicisti di corte poi, o comunque dei signori, se non di corte, comunque ancora erano... nel 600 ancora era in uso questo, ovviamente è cambiato molto dopo, però in generale la corte non solo aveva il maestro, il Kapellmeister, appunto il maestro, le corti più grandi, quelle più, ovviamente, però solitamente comunque aveva un bacino di strumentisti che servivano anche solo a intrattenere, non solo sì, il concerto, e magari veniva l'autore e faceva il concerto, no? Ma proprio in generale, soprattutto nel 600, appunto, non a caso i pezzi sono tutte danze, appunto la passacaglia, la ciaccona, perché i musicisti di corte del 600 servivano proprio a creare questa orchestra privata che poi faceva divertire la corte. Chiaramente, ovviamente, no, dipendeva dai momenti, l'organico era più o meno grande, dipendeva un po' dalle corti, dall'occasione, eccetera. Sì, dai vari signori che però che in generale, stipendiavano. Esatto, era così. Chiaramente a Versailles c'era l'orchestra di un botte di elementi, in una corte più piccola, o a Vienna c'era poi, insomma... O dei barberini. Esatto, il Kapellmeister magari più famoso, l'autore era più famoso, però in generale, insomma... era proprio particolarmente nel 600, o magari una volta veniva il virtuoso famoso Farinelli alla corte a cantare, però chiaramente aveva bisogno del gruppo e facesse il concerto, no? Era proprio così, per quello l'organico un po' di base rimaneva, i musicisti stipendiati dalla corte. Sì, tra l'altro un'altra cosa piuttosto interessante è il fatto che poi è interessante, ma è anche ovvia in realtà, molti di questi compositori furono i primi compositori ad usare certi strumenti, cioè si parlava di strumenti che erano un'innovazione per il momento, ad esempio il violino, esatto. O anche la tiorba, cioè comunque erano degli strumenti che non è che esistevano lì da 100 anni o più, erano degli strumenti innovativi, creati magari da poco, che magari dovevano anche essere un po' modificati, sperimentati. Si andava un po' a tentativi e come si faceva? Si faceva dando l'impasto a un esecutore, a un compositore che li provava, ci scriveva, li usava e poi andava a dire al costruttore, boh sì, però qui magari io farei così. Modificherei. Quindi poi di fatto lo strumento come ci è arrivato ai nostri tempi è poi il frutto sì di costruttori che ci hanno lavorato sopra, ma anche poi degli stessi musicisti che poi di fatto, insomma, andavano a costituire insieme gli altri poi i limiti e sì. le possibilità proprio dello strumento fisico. Sì, era un lavoro di gruppo, insomma. Per esempio, qui abbiamo Leggio Pandolfi Mealli, che appunto veniva definito maestro di imparare e suonare il violino, primo strumentista di violino della città, appunto, quindi un virtuoso del violino, ma probabilmente proprio uno dei primi che un po' ne testava le capacità dello strumento, ecco. Quindi non erano solo magari virtuosi o particolarmente appunto esperti nell'arte del violino, però erano strumenti che appunto non avevano molta storia, come diceva la Maria, ancora, quindi dovevano essere veramente esplorati un po'. Eh sì, tra l'altro Pandolfi Mealli, buffo perché fino al 1660 era il musico di corte d'Asburgo a Innsbruck e poi 15 anni dopo, quindi fino al 1675, si trasferisce invece a Messina e appunto è lì che inizia a... cioè diventa appunto questa definizione che vi leggeva la Virgili, di primo strumentista di violino della città, da cui però deve fuggire perché accusato di omicidio. Cioè in realtà... storie torbide. Sì, molti di questi nel 600 era abbastanza tipico, cioè molti di questi strumentisti poi in realtà non vi immaginate il VIP, cioè era qualcuno che sì, effettivamente era stipendiato, aveva un posto fisso, se la passava sicuramente molto meglio, però poi... magari andava nella bettola a bere la sera e poi alla Caravaggio. Sì, e poi non a caso il periodo è quello. Eh sì, finiva a coltellate e poi doveva andarsene perché insomma aveva un po' sgrezzato e vabbè che sei il prediletto del re, ma fino a un certo punto... 600 violento. Sì. E quindi poi da lì lui scappa a Madrid, dove peraltro diventa il violinista della Cappella Reale della Corte, perché ho capito l'omicidio, però insomma se sei bravo si piglia. Così, questo era uno. Poi, se no, c'era anche Federico Ferrari, che abbiamo citato tra i tanti, che era un virtuoso della tiorba, insieme anche a Girolamo Kassberger, anche lui chiamato il tedesco della tiorba, e tra l'altro tedesco di origini, ma in realtà Girolamo Kassberger era assolutamente italiano. Sì, di lui sentiremo il pezzo Toccata l'arpeggiata. Quindi. Sì, bellissimo Kassberger, tra l'altro. E Federico Ferrari, oltre ad essere virtuoso della tiorba, è noto perché vabbè, un altro girovago che andava un po' in quella per le città, finì anche a Vienna, e era un compositore, altra cosa che a me questa cosa te la buttano lì nei dettagli biografici, a me mi fa impazzire, compositore di musiche su libretti di Ariosto e Tasso. Così. Sì, cioè, d'altra parte è vero, cioè effettivamente è quello era la roba su cui certo. si musicava. Probabilmente intende chiaramente tratti dalle opere. E sì, cioè, poi ce ne abbiamo altri, ora vabbè, chiaramente su Monteverdi non ci ritorniamo, ma lui è l'unico un po' più famoso della lista, insomma, di cui abbiamo parlato spesso e riparleremo. Però per esempio Luigi Rossi, che nel concerto è l'autore di Lasciate Averno, e Luigi Rossi era piuttosto famoso all'epoca, era prolifico, insomma scrisse molte opere e a Roma era a servizio prima della famiglia Borghese e dopo dei Barberini, quindi insomma non proprio l'ultimo scravo. No, tra l'altro lui è bellissimo, ha fatto delle cose veramente veramente belle. E poi per esempio abbiamo questo Marco Uccellini, che lui era proprio un virtuoso della tecnica, qui dicono appunto la tecnica per la mano sinistra era molto sviluppata e in alcune due sue sonate c'è proprio un ampliamento dell'estensione del violino verso un registro più acuto grazie proprio a questa sua capacità. Quindi per esempio in questo caso, come diceva prima la Mari, la bravura del musicista permette allo strumento di essere modificato e di raggiungere dei registri che prima non aveva, no? Che non erano stati insomma scoperti, quindi non erano stati poi attuati effettivamente sullo strumento. E per esempio di lui c'è un pezzo che è la Lucimania Contenta, che non abbiamo capito che sia, perché come, però per esempio questo Marco Uccellini appunto non è molto noto ai più, però probabilmente è a lui dovuto una serie di modifiche sugli strumenti sono a lui dovute grazie proprio a questa sua capacità. Sì, per esempio. Poi c'erano sempre su questo stile all'interno della musica invece cantata c'erano degli altri pionieri, tipo Ignazio Donati, pioniere appunto dello stile del mottetto concertato, oppure Giovanni Felice Sanchez. Il primo ad aver introdotto la cantata nella prima metà del XVII secolo. Quindi, insomma, anche su quello c'era molta sperimentazione e niente era dato al caso. Poi noi ci ascoltiamo sempre Palestrina e vari, però, Vero, insomma, certo. di fatto si arriva a uno stile attraverso anche molti cosiddetti minori, fra l'altro come poi avviene nella Sì, pittura. perché poi paradossalmente 600 è proprio un momento piuttosto interessante per questo, proprio perché magari ancora non c'erano grandissimi nomi, a parte, no, appunto se si parla di Monteverdi o comunque sì, però insomma in generale, no, c'era tutto proprio così, un calderone di autori che lavoravano appunto, no, anche un po' a Lorenza Fusa alla creazione di questo stile, che poi magari col tempo sono stati un po' dimenticati dai non addetti ai lavori e che però in realtà hanno contribuito proprio grazie al loro lavoro a quello che poi si chiama appunto il barocco, lo stile del Seicento, insomma come si vuole chiamare. Quindi in realtà particolarmente per questo periodo storico è particolarmente vero appunto che tolti quei appunto due o tre nomi noti che poi sono passati alla storia in un senso un po' pop, forse, no? In un senso un po' appunto che sono stati un po' iconizzati, Palestrina, Monteverdi. In realtà poi c'era tutto questo sottobosco di autori minori, ma tra virgolette minori mica tanto, che creavano appunto opere molto belle, molto interessanti, e in particolare grazie a queste opere si sviluppava poi e si cristallizzava uno stile musicale che poi sarebbe rimasto insomma in eterno. Quindi in realtà è interessante focalizzarsi appunto anche su questo. Sì, l'ultima cosa che ci siamo segnati e non vi ho detto è che, così, giusto per, che Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, Fumagalli, Carulli, cioè Simpson. veramente sembrava signora, com'era quella di Fantozzi, la Sì, Serbelloni Mazzanti Mazzanti viene viene dal dal mare. mare, Sì, più o meno sarà stato il marito. siamo stati lì. No, che era quello poi che si diceva prima dell'omicidio, no? Che poi scappa, bla bla bla, virtuoso del violino, eccetera, eccetera. No, ci tenevo a sottolineare che è nato a Montepulciano. Vedi, infatti, No, sì. perché è così, lo volevo dire anche buttarla lì Chiaro. a Prog 75, lui sa, capirà. E, quindi niente, questo più o meno un po' di note su alcuni, perlomeno degli autori che vi state per ascoltare. E invece due cose sull'arpeggiata. L'arpeggiata, dicevamo prima, è un complesso in realtà europeo, diciamo, perché non, al suo interno non ci sono musicisti soltanto di un unico paese. Tra l'altro, spesso cambia l'organico, nel senso dirige Cristina Pluhar, ma in realtà poi ci sono via via, a seconda dell'occasione, questo o quell'altro interprete che si aggiunge. Un complesso, secondo me, molto interessante perché è estremamente filologico nella poi rappresentazione, nella scelta, appunto, come diceva anche prima la Virgi, sia degli strumenti antichi e tutto quanto. Ma con poi anche un qualcosa di moderno, delle scelte invece un po' più azzardate, dei divertissement, dei cogliere, diciamo, attualizzare anche lo spirito che era dell'epoca e provare a riportarlo nei giorni nostri. Per cui molto spesso ci sono degli elementi un po' ironici, buffi, leggeri, che però facevano estremamente parte dell'esecuzione anche del tempo, per cui non si può probabilmente suonare una passacaglia del 600 in modo completamente ingessato Certo. e così, come se si fosse in un museo. Può essere una buona interpretazione quella invece di cercare di cogliere lo spirito anche giocoso Nel che c'era. contesto storico, quindi Eh sì. Sì, di non estrarlo dal contesto storico di tra come sono l'altro, state create, ora ovviamente. io si va anche oltre, cioè, Grazie. e su questo veramente qui, mi perdonerete, però c'è dei divertissement veramente da nerd della musica antica, bellissimi, che penso facciano ridere solo me, tipo, non lo so, Jaruzelski, che a un certo punto dialoga Jaruzelski, il controtenore, che dialoga in maniera improvvisata con, improvvisata assolutamente, ma figuriamoci, non è vero, era assolutamente concertato, però così, con suonatore di oboe e non mi ricordo se di flauto, un altro di flauto, che si improvvisano cantanti e si mettono un po' a appunto discutere con lui cantando, sì, e si mettono tutti e inforcano tutti gli occhiali da sole alle vere risa, cioè proprio lì c'è la gente che si strappa i capelli dalle risate, loro si divertono tantissimo, pubblico proprio che visibilio. Ma sì, perché ovviamente era chiaramente per noi magari un po' ridere, perché comunque ci sono stati altri mille anni di musica nella, di strada della musica nel mezzo, però bisogna contestualizzare sempre e capire che appunto uno stile musicale riferito al periodo e all'ambiente in cui si svolgeva, quindi come dicevamo no? Appunto l'interazione anche tra i musicisti che suonavano questo nelle corti e i balli non era ingessato, non era come andare a vedere Wagner che ti mettevi a sedere in ginocchio sui ceci e ti puppavi tutta l'opera, cioè è chiaro che si parla di un altro periodo storico, di una musica nata in un altro contesto e bisogna sempre pensare appunto a come questo spirito può essere ricreato, no? Invece di ci sono sempre due tipi di interpretazione, una filologica e una più no? di cercare di adattare tutto al proprio tempo. Forse quella filologica è un po' più interessante perché chiaramente fa capire che se questi suonavano in mezzo a 300 damerini imbellettati e ballavano e bevevano e che si usavano, è chiaro che non saranno stati ingessati come l'orchestra di Wagner nella fossa dei leoni. Anche perché quando si cerca di forzare a riadattarla al nostro tempo, in realtà si sta forzando un riadattamento all'Ottocento, poi spesso, sì, cioè non al nostro vero tempo. La musica classica, bene o male, viene considerata che si ferma lì, anche se non è vero, ovviamente l'abbiamo visto, però sì, in realtà sì, appunto. Sarebbe come non so, fare altri paragoni, però anche nel teatro è così, insomma, è pensare come si andava a vedere l'opera, ne abbiamo detto tante volte, no? Al tempo di Mozart non era assolutamente quel rito che è adesso, no? È così nel silenzio, cioè, questa cosa non esisteva, perché i teatri avevano tutta un'altra... Sì. Poi c'era la differenza, i teatri di corte, i teatri, differenze che ora non ci sono, quindi chiaramente bisogna sempre un po' contestualizzare e capire che un buon musicista, un buon direttore magari cerca sempre di fare un lavoro filologico più che adattarlo per forza, insomma, e che forse è più interessante. Ma sì, particolarmente con lo spirito del Seicento, che era uno spirito proprio così molto divertito, molto autoironico, Sì, che nulla toglieva poi alla bellezza, però che spesso, che insomma raramente era ingessato e così, ecco, è tristo. Tra l'altro anche altro scherzone di Philippe Jaruzelski, che è bellissimo, perché questo è un po' più serio, perché a un certo punto lui, lo sentirete, poi ve l'abbiamo già fatto sentire più volte, c'ha questa voce molto angelicata, con questo timbro femminilissimo, altissimo, e a un certo punto mentre suona, canta appunto un brano così con questa voce angelicata, gli scappa la sua voce reale, che chiaramente essendo un controtenore non la sua voce reale mentre parla non è così, no, certo. Cioè lui c'ha una voce maschile e quindi gli scappa con grandi risa anche lì, chiaramente tutto concertato, però è molto divertente. Io che sono una nerd della musica barocca ho fatto grandi risate, quindi vi invito a guardare anche il video di questo concerto, se non vi fosse bastato la versione audio che vi facciamo lo mettiamo sentire. Tanto sul podcast poi lo mettiamo il link. E quindi questi 16 pezzi che seguono sono appunto l'ascolto di oggi. Sì, circa un'ora e un quarto di concerto secco, bam, così, e con e cui collo. Vi riprenderete e poi sarete pronti per la scena. Vi salutiamo, quindi ci diamo appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 6, cercheremo di essere più puntuali, promettiamo solennemente, e quindi niente, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.

sveglia. Thank you.